24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Infine, credo che sia stata un'ottima giornata per le riforme, alla faccia dei gufi. Ma che c'ha contro i gufi Matteo Renzi? Ma sono degli animali straordinari peraltro, i gufi. Io amo tutti i volatili, adesso amo tutti gli uccelli, mi piacciono tantissimo, ho avuto due merli indiani. Ma che cosa c'ha contro i gufi? Sono animali splendidi, splendidi, vabbè, comunque so. Contro i gufi la giornata positiva era perché c'è stato un piccolo passo in avanti sulla riforma del Senato. Piccolo, piccolo, piccolo. Quel piccolo passo per l'uomo, ma grande per l'umanità, evidentemente. Anche se... Che cos'è questo? Un gufo? Questo verso orrendo, non lo sapevo. No dai, è finto, però lo amo lo stesso, è bellissimo. Grazie a Peter Bescapè che mi ha messo il verso del gufo. Dovremmo iniziare così qualche giorno, però magari ce n'è uno di migliore, no? Questo sembrava un gufo un po' strano, un po' stralunato, diciamo così. E tra l'altro, ma che è questo? Ma questo non è un gufo, era un pipistrello, ma cos'è? Ma finiscila! Vabbè, insomma, i gufi. Tra l'altro, oggi invece, se abbiamo incassato un piccolo passo in avanti sulla riforma del Senato, porca miseria, invece Repubblica titola che la legge elettorale slitta a ottobre. Porca miseria, proprio appena iniziata la 61esima settimana decisiva per la riforma elettorale, la legge elettorale slitta a ottobre. Oh, ma oh, proprio quel traguardo che si raggiunge poco alla volta. Va bene, buongiorno a tutti comunque, questa è 24 mattino alle 6:33 minuti. Sono felice perché ho dormito ben 4 ore, ma soprattutto perché ieri ho azzeccato due pronostici, due avevo messo Germania-Algeria 2-1 e Francia-Nigeria 2-0. Ho pure beccato un paio di marcatori. Ale, saluto anche Miriam Lucchetti in redazione e apriamo il Parlamento, dai! Il caffè volentieri a tutti quanti. Capite, sono felice, sono felice. Ah, mi dicono è il gufo di Barisoni. Barisoni mette quel gufo lì. Allora, saluto Luisella Costa Magna. Buongiorno, come stai? Buongiorno a voi, bene, bene. Ti piacciono i gufi? I gufi come animali? Piacciono. Ma sono straordinari, ma sono bellissimi. Solo che sembra circondato dai gufi, cosa che non è assolutamente vera, si fa male da solo Renzi. Addirittura. Va bene, insieme a Luisella Costa Magna voglio salutare Aurora Lussana, direttore della Padania. Buongiorno Aurora. Buondì, anch'io adoro i gufi, però siamo in tema di zoofilia stamattina, non zoorastri, ecco, vorrei che insomma evitassimo quella deriva, però siamo tutti zoofili e anche la Padania che oggi, come sai, titola con un'altra bella bestiola. Oh mannaggia, eccolo là. Ce l'ho qua. Ce l'hai lì. Le tre scimmiette. Renzi vestito da tre scimmiette. Però qui entriamo subito in un tema molto molto drammatico. Le non tre... vede, non sente e non parla su Mare Nostrum. Su Mare Nostrum. Altro eccolo. Che gufi. No, però subito voglio essere fortemente polemico. Ma ti pare normale che il tuo capo Salvini debba 5 minuti dopo che siano stati trovati 30 persone morte su un barcone dire Renzi ha le mani sporche di sangue? Cioè, suona veramente come, dai, una strumentalizzazione. Ma adesso uno può criticare tutto, ma dire, cioè, 30 morti, cioè, appioppare 30 morti sulla coscienza di una persona, non è un po' troppo? Qualcuno ha una forte responsabilità per quello che sta avvenendo. Sì, certo. Certo, è una responsabilità politica. Così, l'immigrazione ai tempi del vaiolo, dobbiamo però anche raccontare di chi è la responsabilità, chi ha voluto nell'ottobre scorso la Mare Nostrum, chi ha voluto che l'Italia usasse, unico paese al mondo, la sua marina militare per aiutare gli scafisti e per far sbarcare, ormai siamo a quota per 61.500 migranti nei primi sei mesi. È una cifra che non è mai stata toccata. Oggi il Corriere della Sera dice questa cifra mai toccata in sei mesi. Esatto. Però è anche vero che c'è una situazione di grave instabilità politica anche in Africa, quindi premono per arrivare. Forza Luisella, di la tua sul tema, ci vuole, insomma, teniamo sempre conto che sono 30 persone, poi lo leggerò nella sera stampa, che sono morte in una maniera tra l'altro orribile. Cioè, li hanno chiusi sotto per non farli muovere, li hanno chiusi sotto con una botola e sono morti così, senza aria. No, è allucinante. Poi dopo che dite che il problema debba essere un problema europeo, per cui insomma bisognerebbe impedire le partenze, fare accordi bilaterali, eccetera, tutto questo è vero. Dopodiché Salvini non ha detto solo questo, ma ha detto che portano gli immigrati, non sono segnato, scabbia, tubercolosi ed ebola, per cui voglio dire, stiamo parlando di una persona che era quella che voleva fare disinfettare i tram se salivano gli immigrati. Ma no, dai, ma chi ha disinfettato i tram, anche film? Ma io capisco che è molto eccitante immaginare il leghista razzista, probabilmente uno si esalta così. Ma quando Salvini è salito a disinfettare un tram? Sei una giornalista, documentati, portami la data di quando. Invece c'è stato la responsabilità dei morti del Mediterraneo, uno sta lì a pensare a Salvini sul tram, e che lei pensi a Salvini sul tram, noi pensiamo al Mediterraneo che è un cimitero. Va bene, stiamo parlando di questo. E quindi fare uscite di questo tipo, ovviamente, considerando che poi gli immigrati che arrivano da noi, e soprattutto nel nord-est della Lega, lavorano e aumentano il PIL del ricco nord-est e delle zone più ricche del paese, francamente non attaccherei Renzi. È questa la questione, cioè che ci sia, Aurora Lussana, che ci sia una responsabilità di qualcuno, discutiamo di tutto quello che ha dato un po' fastidio. Non parliamo di Salvini sul Trump, non parliamo di Salvini sul Trump. La questione è che 10 minuti dopo questa notizia c'è stata questa dichiarazione, no? A volte anche i tempi... Deve dire? Va bene, con la Mare Nostra. Ma no. Andiamo alla Grecale in Siria direttamente. Ma nessuno sta discutendo. Però a volte tu ben sai che nella politica anche i tempi magari, no? È suonato come dire, ci sono 30 morti, boom, subito dichiarazione, no? Questi morti, diciamo, sono sporchi di sangue. È meglio di Renzi, che è arrivato ieri sera dopo il CDM, si è accorto ieri sera che c'erano stati 30 morti, che siamo a 61.000 clandestini sbarcati. Comunque, sentiamo la dichiarazione di Salvini. Ha detto qualcuno giacche sporche di sangue. Sentiamo Matteo Salvini. Renzi si sta svegliando su questo? Vi chiedete che cosa intende fare? Pensate di poterne accogliere 5.000 al giorno, con 30 morti ogni tanto, peraltro? Vabbè, mi sembra veramente assurdo, mi sembra una schifezza. Qualcuno ha le giacche sporche di sangue. Questa la frase di Salvini, che ha ancora aggiunto: più ne salviamo e più partono. E questa è l'accusa alla politica Mare Nostrum. Ma a qualcuno viene il dubbio che più ne andiamo a prendere e più ne partono? Certo. C'è qualche genio al governo? Qualcuno avvisa Renzi che, essendo l'unico Stato al mondo che usa le navi della Marina Militare per aiutare gli scafisti, ne arriveranno 50.000, ne arriveranno 200.000? Allora, questa è la critica politica sulla quale, diciamo, accetto di discutere in maniera molto serena e pacata, cioè la critica a Mare Nostrum. E effettivamente, allora, Luisella Costamagna, non è che questa politica di Mare Nostrum è una politica sbagliata, perché è una questione che dicono molti, incentiva le persone a partire sapendo che c'è un soccorso, un aiuto, Mare Nostrum proprio è una missione dedicata a questo, salvare i migranti che stanno attraversando il Mediterraneo. Innanzitutto, visto che la Lussana diceva che voleva una data, gliela do, il 6 maggio del 2014 Salvini alla Zanzara ha detto degli immigrati darei il DASPO, portano scabbia, tubercolosi ed Ebola. Quindi e il tram che va a disinfettare il tram, te la sei inventata. Vabbè, il tram, cancelliamo il tram, dai, cancelliamo il tram, va bene, insomma, dai. Era, forse era Borghezio che andava sui treni delle prossime, ma lasciamolo stare, dai, su. Dai, l'ha detto un mese e mezzo fa la scabbia e l'Ebola. Quanto a Mare Nostrum, ma stamattina ha letto i giornali. Aurora, dai, un attimo, dopo ribatti. No, quanto a Mare Nostrum, allora il discorso è che, come dicevo all'inizio, effettivamente bisognerebbe coinvolgere, quello a cui si sta pensando anche l'Europa, un problema che ovviamente noi non possiamo controllare da soli. Mare Nostrum è un'operazione in realtà di salvataggio e di solidarietà per chi sta in barca nelle mani di scafisti e sta facendo una tratta pericolosa e quindi è solo un meccanismo di salvezza, è un salvagente. Ma non è un incentivo? Potrebbe essere anche un incentivo, cioè dire. No, un incentivo no. Ovviamente gli accordi bilaterali paese nel momento in cui i paesi dell'Europa sono andati a bombardare, quindi non sono stati stabiliti neanche degli accordi per impedire le partenze, questo ovviamente crea un problema di sbarchi, di viaggi e adesso tra l'altro è notizia di queste ore che si apra un fronte pericolosissimo anche tra Israele e Hamas, che ci sono stati i raid a Gaza e questa è ancora più drammatica come situazione. Però, dopodiché, Mare Nostrum è assolutamente un'operazione, secondo me, legittima. Una volta abbiamo invitato anche il comandante di Mare Nostrum e devo dire, cara Aurora Lussana, che lui disse da militare, dice, non abbiamo mai fatto così, non è mai stato così naturale rispondere agli ordini come in questa missione, perché se uno si trova in mare in questa situazione, cioè non se lo pone nemmeno il problema di aiutare o non aiutare. Neanche la missione dovrebbe essere in questo dal punto di vista militare ci sta, voglio dire, un militare esegue gli ordini e poi dice siamo gente che va per mare, sappiamo bene cosa vuol dire, però io me lo pongo il problema e su questo le critiche politiche ci sono, Aurora Lussana, cioè voi dite che Mare Nostrum incentiva le persone a partire, qui c'è qualcuno che vi aiuta e quindi questo naturalmente spinge qualcun altro a partire, a cercare non si dirigono né verso le coste spagnole né verso le coste greche verso le coste cipriote, lo sanno che qui c'è l'accoglienza, le porte aperte, è una visione del mondo diversa, io penso che i confini debbano esistere e debbano essere difesi e c'è chi come voi probabilmente la sera lasciate la porta aperta e accogliete tutti a casa vostra, no? Ma voi chi? Ma no. Cosa c'entra? No, questa, però io ribalto la domanda. L'accoglienza dei limiti, un'instabilità geopolitica voluta dalla ex superpotenza, ormai superimpotenza mondiale che sono gli Stati Uniti, che hanno destabilizzato il Mediterraneo e gli italiani si ciucciano tutti i cascami della ho capito, ma allora io ti faccio una domanda ribaltata. Secondo te, se non ci fosse Mare Nostrum, molti migranti non partirebbero, non scapperebbero dalle guerre, non ci penserebbero due volte? Ma l'Europa sai quanto se la ride, dice se la stanno grattando la rogna a tutti gli italiani, è un problema europeo perché i confini del Mediterraneo e nel frattempo l'Italia di andare a salvarli o no? Li mollerebbe lì a morire come muoiono già salvandoli? Cioè la domanda è che partirebbero comunque forse, Non so voi se conoscete le leggi del mare, quando c'è un'imbarcazione in difficoltà, a prescindere dalla marina, siamo obbligati, ok, queste sono le leggi del mare, sono leggi scritte nel cuore degli esseri umani e sono prepolitiche queste leggi, quindi non c'entra niente l'Aurora Lussana che va a salvarli. Vorrei capire, vabbè, Luisella Costamagna quanta gente va a salvare ogni giorno, visto che vuole la Mare Nostrum dovrebbe essere conseguente in questo gesto di solidarietà e portare un contributo fattivo. 50.000 persone arrivate in Italia a me non interessano più di tanto, perché mi interessano di più 50.000 lavoratori che non hanno la cassa integrazione, come ci ha raccontato il compagno Poletti. Forse voi conoscete tutta gente che non è in cassa integrazione. Stamattina sono 50.000 le persone a rischio nel nostro paese che non ci danno i soldi della CIG. questi qua ci fanno schifo, dobbiamo aiutare ma no, solo, ma perché metterli in contrapposizione? Io non capisco perché metterli in contrapposizione. Come perché se... i soldi sono pochi, perché un sistema di welfare in crisi come il nostro ha pochissime risorse da allocare. E la politica ha una scelta da fare. Allora, noi adesso per accogliere 60.000 persone significa che dobbiamo garantire 60.000 prestazioni di welfare, giusto? Ma no, ma questi mica, parte che mica vogliono stare qui, cioè, chiariamo spesso che molti di quelli che arrivano poi vogliono andare in altri paesi. Ma non ci vanno perché non c'è l'order sharing, non ci vanno perché lo sai benissimo com'è l'accordo di Dublino, che non hanno mai voluto modificare, perché figurati. Sì, certo, non è che possono girare liberamente indisturbati, però la questione è sempre quella, cioè capire se non ci fosse Mare Nostrum, non è che Mare Nostrum crea le condizioni di guerre, carestie, per cui queste persone scappano. Questa era l'obiezione che facevo, cioè non è che siccome c'è Mare Nostrum, i migranti dicono toh, andiamo in Italia. Immagino che uno che prenda, faccia attraverso il deserto e scappi, scusa, parte da una situazione di difficoltà, no? Ma la rotta è verso l'Italia, ovviamente, verso paesi come la Spagna, dove magari li respinge. La Spagna li respinge, dopodiché ha delle politiche di immigrazione che gli fanno onore, ha degli investimenti sull'immigrazione che noi ci scordiamo, li respinge, ma chi entra diventa a tutti gli effetti cittadino spagnolo, cosa che noi non facciamo, non abbiamo mai fatto, manco avendo avuto presunti ministri dell'immigrazione e dell'integrazione. Dopodiché non farei la guerra dei poveri tra cassa integrazione, soldi che mancano, voglio dire, adesso non voglio citare i processi della Lega, i soldi intascati, che sono soldi di tutti i cittadini, mancano i soldi per la cassa integrazione, l'ha detto il ministro Poletti, diamo i soldi ai 50.000 che rischiano appunto la cassa integrazione e non hanno i soldi, e salviamo le persone che stanno sbarcando da noi. Questo è un principio di correttezza e di solidarietà, questo... e i soldi si devono trovare. Certo, è il principio contestato a dire non ci sono soldi per tutti, la situazione di crisi effettivamente c'è. Comunque andiamo a sentire le informazioni sul traffico, la segreteria telefonica. Che inizio, d'altronde la situazione e le vicende e i racconti, anche le foto che descrivono quello che è successo ieri, raccontano proprio di un dramma molto molto molto intenso, è davvero una cosa incredibile. 24 mattino. Mi pare che siamo un paese fuori di testa se intitoliamo una piazza a quel povero ragazzo che è morto, Ciro, e che scriviamo sei un eroe. Non lo so, poveretto, in sé ha fatto pena la cosa, ma mi pare che stiamo sfiorando il ridicolo. Inizia la 18ª giornata decisiva per il rientro di Marò. Bellissima l'idea del forcone, ma io volevo dire Razzi, sei uno zero, Taormina per tutta la vita. Ciao Alessandro, ciao a tutti. Troppi si buttano in politica invece di buttarsi da qualche altra parte. Ci sono tanti bei posti dove buttarsi, da una montagna, in un lago, chissà. Ne abbiamo troppi di politici, troppi che non fanno niente, ci fanno solo incavolare. Umbre de muri, muri de galan, dunde ne vegni fa vedere i man, ye pien de munete de bancunot, ad escarliga via se notte chapeti bot, e a fini l'expo che restò diu, galana san viture se ge fatu niu, che randa, ciao! De André rivisitato, De André rivisitato, ma bravo, bravo, questo, cioè bravo non per il testo, per carità, no, nel senso bravo, intonato il nostro ascoltatore di segreteria telefonica. Allora, siamo con Aurora Lussana, con Luisella Costamagna, vogliamo parlare di qualcosa di un po' più leggero? 20.000? Sì. No, visto che ho l'iPad, io sono donna precisa, controllata. Oh, porca miseria! No! Il disinfettante per gli immigrati è stato Borghezio. Ecco, Borghezio. E allora, dai! La citazione si fa corretta, non ci fa. Va bene, dai, vabbè, ma che cosa? Io capisco che. Aspetta, aspetta un attimo, Aurora, che deve fare la precisazione. Minchia, ma questa la mattina. No, ma no, ma fa la precisazione, Aurora, aspetta, dai. Fini invece disse, sempre a maggio, a maggio 2009, disse che ci volevano le carrozze metro solo per i milanesi. Ah, quindi, è vero, questa la disse Aurora. No, disse che ormai viaggiando in metropolitana a Milano, che c'è tutto il mondo, così disse questa cosa qua, ci vorrebbero fare le carrozze ad hoc per sorrideva. Ma noi siamo minoranza, ma rispettate un po' le minoranze dei milanesi che ci sono a Milano, siate un po' tolleranti. Va bene. Sei intollerante verso le minoranze, cara Luisella, sei intollerante. Va bene, sentite un po', sentite. Allora, siete pronti alla grande consultazione sulla riforma della giustizia? Siete pronti a partecipare? Sì. Tu, Luisella, darai il tuo contributo da cittadina italiana, risponderà. Poi adesso ci sarà il referendum sulla RAI, e della RAI te ne intendi, quindi puoi dare un parere, puoi dare, non so, che consiglio daresti quando partirà la consultazione sulla RAI? Caro Renzi, tu rispondi, caro Presidente Renzi, consiglio... Al di là del fatto che è un dato oggettivo che adesso le consultazioni online, negli streaming, qualcosa, dicono che non ha fatto niente il Movimento 5 Stelle, diciamo che qualcosa l'ha fatto, visto che lo copiano per qualunque cosa. Un po' grillina. Dopodiché ragioniamo su, io questo l'ho scritto anche sul Fatto, cosa sarebbe successo se queste cose le avesse fatte Berlusconi? Cioè, dai tagli alla RAI, una riforma della giustizia, linee guida, perché chissà quando, su internet, intercettazioni, responsabilità civili dei magistrati, immunità per i senatori, legge ad personam infilate in mezzo a una riforma della pubblica amministrazione. Se davvero queste cose le avesse fatte Berlusconi e non Renzi, sarebbe successo il finimondo. Questo bisogna ammetterlo. Luisella Costamagna che difende Silvio Berlusconi in qualche modo. No, è così, almeno dico, Berlusconi aveva contro. Vabbè, ma che cosa consiglierai? Una fetta della stampa. Certo, ma Renzi cosa... no. Silenzio assoluto, totale condiscendenza di tutti. Eccolo là, tutti Zerbini, tutti sul carro del vincitore, tutti che c'è posto. No, ovviamente. No, io sono assolutamente acritico, sono assolutamente critico nei confronti di tutti, non mi interessano, non parteggio per nessuno. Faccio fatica, come dico sempre, faccio fatica a stare con me stesso, figurarsi se sto con Renzi o chiunque altro. Vabbè, ma cosa consiglierai? Cosa consiglierai? Io credo sulla RAI, che i problemi della RAI li conosciamo, dopodiché è un'operazione, se si deve vendere Rai Way, che come si sa, non si sa, però è il sistema nervoso della RAI, ma non solo, perché è il sistema che permette anche le comunicazioni di sicurezza nazionale, è veramente questa una follia. Dopodiché che ci siano sprechi in RAI è indubbio, mi sembra però un'operazione che non è chiarissima, Vabbè, Rai Way, Aurora, tu cosa consiglierai sulla riforma della giustizia e la consultazione popolare? E sulla RAI, quello che vuoi. Ma ovviamente quando non si ha un'idea, non si sa come uscire da un problema, si inventa sta roba qui della consultazione online. Vabbè, insomma, d'altronde c'è la crisi epistemologica, c'è la crisi politica, c'è bisogno di un cambiamento di paradigma totale. E Renzi adesso, vabbè, oggi ci sarà l'Eurosbornia, lo sai, su cos'è alla plenaria. Ma è vero che Buonanno si presenta in burca? No, non lo farà. No, cosa ridi? Si presenta in burca alla prima dell'Europa. No, ma come non credo? Secondo me invece credono proprio di sì. È vero, hai più frequentazioni tu di me. Ma l'ha detto in aula alla Camera, dimettendosi, mi presenterò la prima seduta in burca all'Europa. No, non ho preso appunti del suo ultimo intervento. No, ha detto così, l'abbiamo mandata. Salutato la Boldrini. Appunto, mi presenterò in burca. Ma sentite il ministro Madia, pubblica amministrazione, grande riforma della pubblica amministrazione, ma ci tiene a far sapere che... Peppa Pig lo guarda ancora? Purtroppo sì. Purtroppo sì, Peppa anche Pig se spesso la guarda ancora, altro, purtroppo sì. A miei figli come a tanti altri bambini. E risponde con una serietà impressionante e articola anche. Luisella Costamagna articola anche la risposta, dice purtroppo sì. No, perché... ma io non lo so. Dopodiché veramente c'è una condiscendenza totale nei confronti di questo governo un po' eccessiva. Siamo alla tifoseria. No. Addirittura. No, nel senso che non si riesce a analizzare davvero com'è in modo razionale, sì. Cioè appunto diceva giustamente la Lussana, mancano i soldi per la cassa integrazione, mancano, era la priorità del primo discorso di Renzi al Senato, mancano i soldi per l'edilizia scolastica, si sono fatte consultazioni online, segnalatemi gli edifici a rischio e questi soldi non sono stati né stanziati, forse l'aveva stanziati. Li troveremo. Vi ringrazio, ricordo il libro di Luisella Costamagna, compratelo, cosa pensano di noi? Noi ne abbiamo parlato, edito da Mondadori, ne riparleremo un'altra volta per capire come va. Ciao, ciao! 1, 2, 3, adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Sono le 7 e 18 minuti, cari ascoltatori, eccoci qui alle 7:18, forza, bisogna andare a lavorare come sempre e ricordo che oggi noi parleremo di questa vicenda delle nuove tasse, adesso si è aggiunta anche il POS, So che ce ne siamo occupati in altre trasmissioni, ieri Deborah Lusciani, in Cuore Denari, con Nicoletta Carbone, si sono occupati di questo tema, ma noi vogliamo cercare di capire questo sistema. Allora siete andati dall'idraulico, avete avuto un intervento dell'idraulico, siete andati dal fruttivendolo, siete andati da un artigiano, siete andati da un corniciaio, avete voluto pagare con questo POS e cosa vi ha detto? Avete preso un tassì? E vi hanno detto no, col bancomat non si può pagare, sì col bancomat non si può pagare. Fatecelo sapere, perché per molti commercianti è la nuova, per molti artigiani, per molti imprenditori è un nuovo modo per vessare e chiedere soldi, tutto a vantaggio delle banche, delle commissioni, soprattutto con questa cosa italiana per cui mettiamo una cosa obbligatoria, ma se uno non si adegua non c'è alcuna sanzione. Boh. Capita anche questo. Parleremo di questo e di altro dalle 8:15 con ospiti e intanto andiamo a sfogliare i giornali che trovate in edicola. È iniziato luglio, è martedì 1 luglio e intanto i titoli, il Sole 24 Ore in prima pagina, la intervista fatta al ministro dell'economia Piercarlo Padoan, la flessibilità c'è, sbagliato parlare di nuove regole, questo è il titolo e poi leggeremo l'intervista di Fabrizio Forché al ministro dell'economia. Poi la tragica vicenda dei migranti, altri 30 morti, ancora una strage di migranti, titolo al Corriere della Sera. Per il Fatto Quotidiano c'è la foto del barcone con il titolo Semestre Europeo, è il semestre di presidenza italiana. Il Giornale invece mette il titolo di prima pagina così, Mare Mortum, come dire altro che Mare Nostrum, l'operazione della Marina. Governo da sbarco, questo è il titolo di Libero, mentre su questo tema Morire in ultima classe è l'apertura di Avvenire. Per invece l'Unità Immigrati, chi ferma la strage, mentre il Manifesto, manco morti, vivi o non, per loro non c'è posto, c'è una foto dei migranti. La riforma della giustizia invece è in prima pagina per Repubblica, riforma in 2 mesi, così Renzi vuole cambiare la giustizia. Per La Stampa, giustizia, Renzi lancia la riforma in 12 punti. Il Messaggero, giustizia, la riforma di Renzi. Questi alcuni titoli. A proposito di riforme, però, voglio partire da che cosa? Dall'intervista che la Presidente della Camera, Laura Boldrini, rilascia al Corriere della Sera, nella quale si parla del tetto da 240.000 euro per la pubblica amministrazione. Abbiamo spiegato miliardi di volte che Camera e Senato sono autonomi e dunque devono applicare autonomamente se vogliono questo tetto, e il senso dell'intervista di Enrico Marro è proprio su questo: applicherete il tetto da 240.000 euro anche ai dipendenti, 1.300 dipendenti della Camera e peraltro 800 al Senato, ma questo non compete a Laura Boldrini. Camera da leggi urgenti in 30 giorni e un tetto per tutti gli stipendi. Questo è il titolo, che quindi è una risposta Intanto, parlando del bilancio, Laura Boldrini dice: abbiamo restituito allo Stato 50 milioni l'anno, non accadeva dal 1960. E sul tetto alle retribuzioni, alla domanda vi adeguerete o vinceranno le resistenze? Risponde Laura Boldrini: credo che tutti si rendano conto che è necessario adottare misure di sobrietà. Da mesi stiamo lavorando su una riforma che si muove lungo due direttrici. La prima riguarda il personale. Insieme col Senato vogliamo arrivare al ruolo unico dei dipendenti e a una riforma complessiva delle retribuzioni. La seconda direttrice riguarda la Camera e il suo regolamento. Sì, ma parliamo dei 240.000 euro. Premessa, risponde Laura Boldrini, nessuno vuol fare interventi punitivi. Siamo consapevoli che qui c'è un personale molto qualificato che lavora senza guardare l'orologio e che opera in modo imparziale. Sì, ma ci sarà il tetto da 240.000 euro? Chiede per la terza volta Enrico Marro. Se ne sta discutendo in maniera concreta. L'opinione pubblica si aspetta maggiore sobrietà, e due sobrietà, da parte delle istituzioni. L'ultima cosa che vorrò fare è deludere questa aspettativa. Vabbè, come vedete non c'è una risposta precisa, cioè si proverà a farlo. Quanto prende? E qui c'è la risposta epocale di Laura Boldrini. 12.000 euro, di cui 2.000 vanno al collaboratore, più o meno quanto un deputato. La sobrietà fa bene all'istituzione. E tre sobrietà. Ma poi che sobrietà è 12.000 euro? Non mi sembra uno stipendio, commento mio questo, non del Corriere della Sera, non mi sembra uno stipendio per cui si possa parlare di sobrietà a 12.000 euro. Comunque, sobrietà. Per la terza volta cita la questione sobrietà. Deciderete anche senza accordo coi sindacati? Noi miriamo al più ampio consenso. Vedo qui alla Camera alcuni sindacati dialoganti ed altri più chiusi. Mi auguro si facciano parte attiva come lo è il vertice dell'amministrazione. Vabbè, cercheremo di sperare che davvero arrivi questo tetto da 240.000 euro. Ma staremo a vedere. Altra notizia di cronaca che mi ha colpito, ma nel senso che c'è anche questo un lato un po' tragicomico, lo dico subito, è quella che mette in prima pagina Libero: Iva Zanicchi è andata a trovare in carcere Marcello Dell'Utri. E vabbè, e fin qui nulla di male. La Zanicchi si denuncia: ho visitato Dell'Utri, gli negano libri e ventagli. È stata nel carcere di Parma a trovare Marcello Dell'Utri, condannato in via definitiva, che è stato anche recuperato a Beirut per associazione esterna alla mafia. Sono andata in carcere a trovare Dell'Utri e l'ho fatto perché lo stimo, l'ho incontrato tanti anni fa a Mediaset, è sempre stato corretto e gentilissimo, sono andata come amica anche se non ci frequentiamo. E vabbè, e qui parte l'articolo di Francesco Borgonovo, che continua poi a pagina 11 di Libero. Dell'Utri in cella sta male, gli negano pure il ventaglio. Parla della polemica anche della pagina di sostegno Dell'Utri sul Corriere della Sera. Ma come? Uno non è libero di pagare una pagina di giornale, dice Iva Zanicchi, e non è libero di scriverci quel che vuole. Giustamente qualcuno ha fatto il paragone con la vicenda di Sofri, che ha sempre scritto libri e articoli, e a nessuno è mai venuto in mente di dire nulla. Quella pagina sul Corriere è appena uscita e ho detto a Dell'Utri: Marcello, hai visto? Ci sono persone che ti vogliono ancora bene. Lui mi ha risposto: mi ha fatto un immenso piacere. Poi ha fatto una lunga pausa e ha aggiunto: ma e gli altri? Non so che cosa volesse dire. Qui grande puntini di sospensione. Ma soprattutto è il momento clou dell'intervista, quando Iva Zanicchi dice: abbiamo parlato del passato, abbiamo parlato dei giorni in cui conducevo Ok, il prezzo è giusto. Iva Zanicchi e Marcello Dell'Utri. Poi dice: ha invece un problema, vuole leggere i libri ma non glieli concedono, soprattutto mi ha detto che vorrebbe un ventaglio, ma non glielo danno perché potrebbe essere usato come arma impropria. Sto cercando di trovare dei ventagli di cartone per mandarglieli. Iva Zanicchi in carcere a trovare Marcello Dell'Utri. Oh, come detto, noi parleremo della questione del POS, giusto per accennare. Oggi tanti articoli raccontano che circa il 20% dei professionisti e commercianti si sono adeguati con il POS, anche se è obbligatorio. Molti di loro, però, ci sono giornali che fanno i viaggi, protestano perché dicono che ci sono le commissioni delle banche troppo alte e quindi non li mettiamo. Altri denunciano di giornali che vengono fatti pagare ai clienti le commissioni, no? Qualcuno dice, ah, vuoi prendere questo? Allora mi devi pagare 2 euro in più se paghi col POS. Ma come? Giustamente il cittadino dice, ma è obbligatorio. Vabbè, ma noi tanto non ci sono sanzioni e quindi io non lo metto perché costa troppo. Insomma, la solita cosa all'italiana. E infatti oggi Massimo Gramellini dedica il suo buongiorno dal titolo "Non ne pos più". In prima sulla stampa, nei paesi meno intelligenti, il POS è un banale sistema che consente ai clienti di pagare ovunque con bancomat e carta di credito, senza estrarre banconote unte, stropicciate e facilmente nascondibili all'occhio indagatore del fisco. Invece, in un paese intelligentissimo, di cui tacerò per omertà il nome, il POS è un astuto sistema studiato dal dottor Azzeccagarbugli in persona, con l'assistenza del gatto e la volpe e la supervisione del gatto pardo. Consiste nell'obbligare commercianti e artigiani a munirsi della macchinetta che legge le carte di credito, ma senza prevedere, qui sta la genialità, alcuna sanzione per chi si rivela allergico all'idea di dotarsene. Esempio, arriva a casa vostra un idraulico, aggiusta il rubinetto, in un afflato di bontà vi chiede solo 120 euro. Voi estraete la carta immaginando che lui farà lo stesso col POS, ma l'idraulico è un Braveheart della contabilità e rivendica fieramente la libertà di non possederlo. Allora voi, immaginando di avere la legge dalla vostra, rifiutate di scucire i contanti. L'idraulico andrà a denunciarvi per non averlo pagato, mentre voi non potete fargli nulla, perché chi è senza POS non è sanzionabile. Come mai? Per non irritare artigiani e commercianti, prima di imporre una multa, il governo ha deciso di aspettare che le banche abbassino il costo delle commissioni. Aspetta e spera, anzi dispera. E intanto col vostro idraulico come la mettete? All'italiana, ovviamente, ricorrendo al classico PSIN, pagamento scontato in nero. Massimo Gramellini sul buongiorno della stampa, prima pagina. Alessandro Milan, Milan, sempre con te. Vabbè, certo, ovviamente, questo sì. Saluti a Cacà intanto, grazie per essere stato con noi, però voglio dire, adesso guardiamo avanti. Allora, la notizia con cui aprono molti quotidiani è quella della tragedia, l'ennesima tragedia di migranti che tentavano di raggiungere l'Italia. 30 morti asfissiati nella stiva del barcone, l'ultima strage di migranti. Questo è il titolo di Repubblica. Il racconto forse più intenso è proprio su questo quotidiano. Lo fanno Francesco Viviano e Alessandra Ziniti a pagina 4 e 5. Scrivono: c'è una foto che racconta l'orrore della morte nella stiva di quel barcone carico, come mai nessuno ne aveva mai visti. Corpi ammassati gli uni sugli altri, alcuni mezzi nudi, altri vestiti, un groviglio di braccia e gambe spasmodicamente tese verso quell'unica via di salvezza che altri compagni di viaggio dall'alto gli hanno ferocemente negato, condannandoli a una morte atroce, quasi certamente per asfissia ed esalazioni tossiche che provenivano dal motore. Tutti uomini giovani, poco più che ragazzi, tutti neri neri, per distinguerli dai neri, che in una disperata lotta per la sopravvivenza li hanno cacciati giù, chiudendogli sul capo la botola che portava fuori all'aria, per evitare che movimenti pericolosi potessero far rovesciare quel peschereccio che già beccheggiava paurosamente, con la gente che viaggiava quasi fuori bordo, a pelo d'acqua, tenendosi forte ai corrimani, coi genitori che si stringevano e stringevano a sé tantissimi bambini a bordo, alcuni neonati di pochi mesi. sembrava una fossa comune di Auschwitz. Credo sia un'immagine che racconta tutto. Così il dirigente della squadra mobile di Ragusa, Nino Ciavola, racconta sul molo di Pozzallo, mentre coi suoi uomini raccoglie le prime testimonianze dei superstiti. Gridavano, chiedevano aiuto, imploravano di farli uscire, di farli respirare un po'. Cercarono di arrampicarsi gli uni sugli altri per uscire da quel buco dove li avevano stipati come animali da macello. Ma la barca cominciava a muoversi troppo e altri che erano sopra sul ponte hanno avuto paura, gli hanno richiuso la botola in faccia e si sono seduti sopra. È stata dunque una tragedia, come dire, in cui proprio bisogna usare la frase mors tua vita mea. E infatti Avvenire titola in maniera secondo me esemplare in prima pagina quello che è avvenuto: morire in ultima classe. Sì, perché in ultima classe, cioè stipati nella stiva sotto la botola, stanno coloro che pagano meno il viaggio rispetto a coloro che pagano di più e quindi hanno la possibilità di stare fuori. E quando evidentemente la barca si stava per muovere, terrorizzati che si potesse rovesciare il barcone, le persone sopra, le persone che stavano facendo lo stesso viaggio dei disperati sotto, gli hanno tappato la botola e questi sono morti asfissiati. Racconta sempre sulla stampa Nicolò Zancanna, pagina 5, il capitano dei soccorsi: sono sciacalli, hanno stipato 600 persone in 20 metri, ovviamente ce l'ha con gli scafisti. I morti sono in viaggio, ancora una notte senza pace, racconta il comandante, capitano di fregata Stefano Frumento. Stiamo trainando il barcone con le vittime verso il porto di Pozzallo, ha sempre un tono pacato. Fa male vedere sciacalli imbarcare così tante persone su mezzi di fortuna. Io conosco il mare, immagino cosa siano stati 2 giorni in quelle condizioni. Siamo di fronte a una tragedia disumana. E dice anche, aggiunge la militare, sono fiero di quello che stiamo facendo. Sì, perché ovviamente subito le polemiche annose, continue, sono sulla Mare Nostrum, cioè la missione, e il leghista Salvini ha detto Renzi e qualcuno ha le giacche sporche di sangue, ovviamente si è preso subito dello sciacallo, polemiche politiche, tutti contro l'Europa, Alfano avvisa l'Europa, pagina 3 del Corriere della Sera, intervenga o reagiremo con azioni diplomatiche. Sempre Avvenire fa notare che l'Europa ora si inventa il commissario europeo per l'immigrazione e la mobilità, ma poi non si sa neanche se l'attuale commissario Cecilia Malmström, che si occupa di questo tema, sarà a Roma al vertice col governo italiano. Il Corriere della Sera fa sapere a pagina 5 che sono sbarcate nei primi 6 mesi del 2014 oltre 61.000 persone, è una cifra mai raggiunta in passato. Alessandra Arachi a pagina 5: non era mai successo che arrivassero tanti migranti tutti insieme come quest'anno, 61.500 nei primi 6 mesi, un record inquietante. Nello stesso periodo dello scorso anno erano appena rispetto a questa cifra 7.916, un record che non ha paragone. E viene intervistato proprio su Avvenire a pagina 5 il prefetto Morcone, colui che da pochi giorni è capo del Dipartimento Immigrazione del Viminale, parla di situazione eccezionale. In questa intervista a Giovanni Grasso sul quotidiano Avvenire racconta di numeri che parlano da soli: nell'ultimo weekend 5.000 persone salvate in mare. E poi c'è la tragica notizia dei 30 morti. L'Italia è insomma con una situazione piuttosto critica e gli sbarchi, assicura Morcone, aumenteranno con l'arrivo dell'estate, perché la situazione è di grande disperazione al di là del Mediterraneo. Insomma, le solite grandi polemiche dalle quali si spera di trarre qualche lezione. Il timore invece è che tragedia dopo tragedia, avevate sentito dopo l'ultima di Lampedusa, quella con 300 morti, mai più, mai più. Che 30 valgono meno di 300, numericamente sì, ma il concetto è quello. Veniamo alle questioni più economico-politiche. Oggi il Sole 24 Ore intervista in prima pagina il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. L'intervista di Fabrizio Forché, che racconta con il ministro Padoan come si parli di flessibilità. Intanto la flessibilità in Europa, si è parlato o no? La questione era certamente sul tavolo. Sì, ma in che termini, chiede il Sole 24 Ore? Si fa un gran parlare di regole e in particolare di cambiarle, ma nessuno dice per fare che cosa. Se vogliamo cambiare marcia, dobbiamo riempirlo questo cambiamento. E allora Forché chiede, insisto, secondo il governo italiano servono modifiche alle attuali regole del Fiscal Compact? Il quadro attuale offre spazi per affrontare una situazione specifica come quella in cui si trova l'Italia, bloccata sul piano finanziario da un debito molto alto e sul piano della crescita dall'assenza di riforme strutturali. Si parla poi della proposta che ieri ha avanzato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio sul Corriere della Sera, cioè quella degli euro bond, euro union bond, per abbattere il debito pubblico. La risposta secchissima del ministro Padoan è: si tratta di una questione che non è all'ordine del giorno, è una questione complessa perché con quel nome si possono indicare molte cose. E poi alla domanda sarà necessaria una manovra correttiva, altrettanto risposta molto secca: no. Questa la risposta del ministro Padoan. E insomma, tanti temi, la flessibilità c'è, ora riforme e investimenti, così dice il ministro dell'economia. Caro Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sole 24 Ore apre così. Insomma, no, no, tutti dicono no, la manovra correttiva. Le due lettere che tutti volevamo sentire. Sì, no. E poi vedere applicate anche, perché... Anche Renzi lo disse qua poco prima delle elezioni, intervistato da me, disse: ci vuole una manovra correttiva? No. Punto. Allora se ti hanno detto di no, è inutile che continui a chiedere. Infatti. Ma perché tu vuoi una manovra correttiva? No. Anche tu dici no. No. Quindi tutti dicono no. Tutti dicono no. Intanto io vorrei dire che oggi sì, c'è l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie, non so se questo sì c'è il... E invece, visto che abbiamo cominciato con i no, i sì, poi ci sono i forse sui POS, ad esempio. Sì. Vorrei, ma non posso oggi vedo che fai lo spiritoso. Veramente il titolo, come sai, non lo fa l'articolista. Così, no? In ogni caso, da di fianco a una tua bella foto in pagina 36 sul Sole 24 Ore di oggi, campeggia anche questo gioco di parole. E parliamo alle 8:15. Vorrei, ma non posso. E anche noi ne parliamo sul Sole 24 Ore, perché c'è addirittura il caso del consumatore che potrebbe rifiutarsi di pagare e accollare al suo creditore, che non gli mette a disposizione il POS, le spese che lui deve sostenere. Mettiamo che grande paese l'Italia, abbiamo complicato un tantino le cose, che ma strano. Già ieri c'era una bella vignetta di Domenico Rosa, non so se riusciamo a mostrarla adesso vediamo eccola qua. Ma se si vede tutto chiaramente da questa vignetta di Domenico Rosa. Comunque, posso o non posso, oggi dicevo aumento della tassazione delle rendite, allora un'altra indicazione sul Sole 24 Ore di oggi, specialmente per l'affrancamento. Cominciamo a introdurre questa parolina, Alessandro, poi lasciala lì, ne parleremo meglio, c'è tempo fino a settembre, però l'affrancamento è una cosa importante. E poi oggi ci sono un sacco di zero virgola, insomma, che il ministro Padoan sicuramente saprà cogliere meglio di noi: lo 0,3 di inflazione su base annua, lo 0,1 su mese, la produzione industriale che sta a meno 23,5% rispetto al 2008, questo ahimè non è uno 0 virgola, tutto quanto sul Sole 24 Ore di oggi, che oggi poi trovi in edicola anche con l'indispensabile Così parlò Zarathustra. Andiamo un po' sui classiconi. Andiamo sui classici, perché mi sembra che le congiunture immediate non ci diano grandi margini. Allora, con il Sole 24 Ore di oggi anche Così parlò Zarathustra. E poi tutte le novità in arrivo sul fronte digitale. Tu il giornale leggi ancora su carta, mi sembra di capire. Sì, senti qua. Lo so, però sempre di più invece leggono il giornale in formato digitale. Allora, ci sono parecchie novità sul digitale, ma le descriviamo in dettaglio, tra l'altro servizi soprattutto per chi investe, mica come te che tieni i 2 euro lì nel cassetto a fare la muffa, e tu devi sapere che ci sarà naturalmente il quotidiano del lavoro, quotidiano digitale, verticale, come si chiamano in gergo, dedicato alla scuola, ma poi ci sono anche i servizi dedicati alla finanza, Finanza 24 e così via. Benissimo. Certo, bisogna anche avere così affrancarsi, e qui torna l'affrancamento, affrancarsi magari ogni tanto dalla carta, dalla cara vecchia carta, sempre amatissima. Bene, è il mio momento. È il tuo gran momento, caro Mario. Ti sento che è il mio momento, sento da frusciare che è il mio momento, va bene. Frusci, e allora, frusci. Caro Alessandro, cari ascoltatori, traffico. Alessandro Milan, il David Letterman dell'informazione. Eccoci, allora ieri il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha annunciato anche la riforma della giustizia, la ricetta del governo in 12 punti. 12 punti sulla giustizia civile, la riduzione dei tempi, il dimezzamento dell'arretrato, la corsia preferenziale per imprese e famiglie, i punti sul CSM, sulle intercettazioni, dov'è il limite tra diritto all'informazione e tutela alla privacy. Ecco, non è che è stata fatta la riforma della giustizia, si è detto, è partita anche una consultazione popolare, nel senso date il vostro contributo. Questo è il concetto anche che è stato espresso dal Presidente del Consiglio. 2 mesi per le proposte e poi a settembre se ne discute. La ricetta del governo in 12 punti, questo è il titolo del Corriere della Sera. Repubblica dedica l'apertura a questo tema con l'articolo di Liana Milella, riforma in 2 mesi. 12 punti per la grande riforma della giustizia, buttandosi alle spalle 20 anni di dispute ideologiche, chiedendo ai giornali di non pubblicare più intercettazioni che riguardano persone strane alle indagini, richiamando all'ordine magistrati e CSM perché sono i bravi che devono fare carriera e non quelli sponsorizzati dalle correnti. La sfida del processo civile, che dovrà durare 1 anno e non 900 giorni in media. Magistrati che pagano per i loro errori anche se non di tasca propria. Insomma, Renzi ruba la scena al guardasigilli Orlando sulla riforma della giustizia e la espone. Basta con dispute ideologiche, discutiamone, ma poi si decide. Repubblica racconta proprio che c'è una tensione con il ministro Orlando su questo, stretta sulle intercettazioni, stop al falso bilancio, processi civili più brevi, così cambia la giustizia. Forse bisogna dire cambierà, perché la legge slitta, la riforma comunque slitta a settembre, 2 mesi per discuterne. A proposito di slittare, ho letto questo titolo sempre su Repubblica, pagina 11, udite udite, siete pronti? 1, 2, 3, via, la legge elettorale slitta a ottobre, no, proprio nel bel mezzo della 61esima settimana decisiva per la riforma elettorale, ecco che troviamo questo titolo. Quindi sono stati fatti alcuni piccoli passi avanti nei confronti della riforma del Senato, tanto che ieri Renzi ha detto alla faccia dei gufi, questa frase la ripete ormai abbastanza spesso, senso che sembra quasi che abbia qualcosa, un qualche conto in sospeso con questi splendidi animali. Comunque, battute a parte, quello che invece slitta è, pare, ormai definitivamente, entro l'estate non ce la facciamo, la legge elettorale. E dunque, purtroppo, arriveranno altre e nuove settimane da contare. Certo, il Fatto Quotidiano oggi ci va ben poco leggero nei confronti di Matteo Renzi. Giustizia, una paginetta spot per poi discutere con Silvio. Wanda Marra racconta di questa grande consultazione popolare online, un metodo, uno stile, ma la riforma della giustizia non c'è e si riduce a 12 linee guida, una paginetta stringata che viene rimandata sullo schermo di Palazzo Chigi da Matteo Renzi con giacchetta blu elettrico e camicia bianca senza cravatta. Tutto qui. Il Fatto Quotidiano addirittura usa il termine, è la solita supercazzola. Ma soprattutto il Fatto Quotidiano dedica un'altra pagina a un presunto ritardo della vicenda Matteo Renzi, vale a dire la scuola Valeria Pacelli racconta, pagina 7, scuola e annunci, è il primo luglio e non succede niente. Perché questa data? Perché le promesse in tweet che vengono fotografati e messi in pagina di Matteo Renzi, che il 7 marzo scrive «sono al lavoro sul dossier scuola», il 9 marzo sta ancora lavorando, ieri 30 giugno aspettava le risposte dei sindaci, poi i cantieri. Racconta il fatto, dovevano essere erogati 3 miliardi e mezzo, ma per i soldi il governo ha approvato per adesso i soldi che il governo ha approvato da destinare alle scuole sono solo 784 milioni di euro. C'era anche una data, 1 luglio, giorno in cui operai addetti ai lavori avrebbero dovuto iniziare il piano di ristrutturazione e messa a nuovo degli edifici, ma non in tutte le regioni questo processo è stato avviato. È il fatto. Mette in pagina questo ritardo. La cronaca, c'è una svolta per la vicenda della nave Concordia, con l'annuncio di ieri sera del Presidente del Consiglio, sarà Genova a smaltire e demolire la nave naufragata all'isola del Giglio. Concordia Genova è fatta, questo è il titolo di apertura del quotidiano Il Secolo XIX, sì del governo al piano Costa, ora è ufficiale, la Costa Concordia sarà demolita a Genova. Il governo ha anche varato il progetto di riforma della giustizia, ma questo ovviamente per Il Secolo XIX, per la centralità di Genova, passa in secondo piano e viene raccontato a pagina 3 con Gilda Ferrari come 700 demolitori che entreranno nella storia, saldatori, sub, ingegneri, lavori che dureranno 22 mesi e dunque quasi 2 anni, un'operazione che non ha precedenti, si svilupperà in 4 fasi e verrà fatta proprio a Genova, già scelte le aziende che si occuperanno dello smaltimento della Concordia. A proposito di cronaca, ovviamente trovate molto, ma in qui la cronaca dei giornali è superata dagli eventi che vengono raccontati anche tra poco nel giornale radio di Radio 24 e che sono già stati raccontati nella notte di quello che è successo in Israele. In Israele sono stati trovati purtroppo senza vita i 3 ragazzi israeliani che erano stati rapiti e ora il premier Netanyahu minaccia rappresaglia, chiamato bestie i responsabili di questa triplice uccisione. Il timore è che questo scateni ovviamente una controffensiva. Già nella notte ci sono stati molti raid contro le postazioni di Hamas, che sono considerati da Israele responsabili di questo rapimento e triplice omicidio. Sempre per quel che riguarda la cronaca, segnalo solo su Repubblica e La Stampa una pagina dedicata all'arcivescovo di Reggio Calabria Morosini, che ha fatto questa proposta per evitare che la mafia strumentalizzi la Chiesa: sospendere per 10 anni il padrinaggio nei battesimi, cioè non dar la possibilità di fare i padrini nei battesimi in Calabria, terra dove spesso essere padrini è anche un legame legato per alcune famiglie, ovviamente le poche famiglie di 'Ndrangheta, è un legame appunto che cementifica poi i rapporti di criminalità. Siamo al momento conclusivo, velocissimo, la Coppa, la carta Costa verrà segnata presto, intanto ancora oggi va al giornale che ci propone un'intera pagina sulla formula delle ferie perfette. Sapete qual è la formula delle ferie perfette? Almeno 8 giorni in campagna, lo prevede la scienza! La scienza, capite? La scienza, scomodare la scienza per la formula delle ferie perfette. Ci rendiamo conto quanto costi la carta? No, no. 24 mattino. Alle 8:17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori. Oh, lo premetto, se c'è una cosa che mi dà fastidio è parlare male dell'Italia sempre a tutti i costi, essere disfattista, nonostante qualcuno mi critichi di fare così, ma i giornali che spesso raccontiamo raccontano soprattutto notizie negative. Però, cari ascoltatori, ma sembra proprio che a noi le ciambelle vengano fuori mai col buco. Guardiamo l'ultima vicenda del POS. POS, eh? brutalmente da ieri. Cosa vuol dire? Che è obbligatorio per i professionisti che erogano una prestazione sopra i 30 euro dare la possibilità di pagare con una carta, un bancomat, una carta di credito, eccetera. Insomma, se andiamo da un idraulico, un panettiere, un calzolaio, un fruttivendolo, se prendiamo un taxi, e ovviamente se andiamo dal dentista, da un avvocato, da tutti i professionisti, un architetto, abbiamo il diritto di pagare con una carta. Già, ma il commerciante che ha l'obbligo di accettare questa carta e che non ce l'ha la possibilità, tranquilli. Siamo in Italia, non succede nulla, non è sanzionabile, non paga nessuna multa. D'altronde il governo si è reso conto che niente multe finché le banche forse non abbasseranno le commissioni sul POS. E oggi Gramellini scrive sulla stampa: sì, aspetta e dispera che le banche abbassino queste commissioni. Insomma, la classica soluzione italiana, tutti si lamentano, installare il POS non conviene ai commercianti, paghiamo troppo, assolutamente inutile, e i clienti che arrivano dicono: ma vabbè, io che faccio? Addirittura oggi la stampa racconta del tabaccaio che ha trovato la soluzione: viene uno per pagare col bancomat e io gli faccio pagare un euro in più, così la commissione me la paga lui di fatto. Il cliente dice: ma come? Addirittura il cliente dice: ma allora io non ti do i soldi. Insomma, tutti contro tutti per il classico pasticcio all'italiana. Bruno Tinti, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ex magistrato, firma del Fatto Quotidiano. È un po' un pasticcio all'italiana, eh? Sì, sono d'accordo, le cose vanno fatte bene. L'idea è buona, ma naturalmente fin da subito si era capito che ci sarebbe stato il problema delle commissioni bancarie. Sì. Questo era evidente, doveva essere risolto con un provvedimento legislativo. Doveva essere risolto, e invece niente. Comunque Bruno Tinti è un ex magistrato, firma del Fatto Quotidiano. Mi lasci salutare anche Giuseppe Bortolussi, segretario della CGA di Mestre e consigliere regionale in Veneto. Buongiorno Bortolussi e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Senta, quanto costa in media, voi l'avete fatto il calcolo per un imprenditore, un commerciante, insomma, quanto costa avere questo, dotarsi di questo POS all'anno? Ovviamente abbiamo fatto una media su 10 banche, tra l'altro le banche adesso stanno facendo sconti, addirittura in qualche caso lo danno anche gratuitamente. Comunque il canone annuo per un semplice POS è 289 di media euro all'anno. Poi c'è la commissione per il cordless, se uno ha un grande negozio magari, se lo porta a spasso per il negozio, 346 euro. Sì. Commissione invece per il GSM 419, cioè l'idraulico che magari ha tre dipendenti e li manda a aggiustare un rubinetto, uno da una parte e uno dall'altra, dovrebbe dotarsi di un GSM per poter sempre averlo con sé. E lui spende 419. No, aspetti, no. Ma questo è il canone. Il canone. Poi c'è la commissione di incasso. Se parliamo di, per esempio, 100.000 euro di incasso che transitano per il POS all'anno, sarebbero 2.200 euro. Se parliamo di 50.000, parliamo di 1.100. Beh, diciamo che uno più paga di commissione vuol dire che più lavora, ecco, questa sì, almeno è una buona notizia. Questo è vero. In totale verrebbe a pagare mediamente sui 2.400-2.600, però siccome è deducibile completamente dal reddito d'impresa, in effetti se ne paga la metà, una media di 1.200. Ovviamente questo è un caso di scuola, sarà chi pagherà 600, sì, chi fattura 5 volte tante, quindi pagherà di più, però diciamo 1.200 euro è una media di un caso di scuola di quello che potrebbe venire a costare. Ma la vicenda all'italiana, Bruno Tinti, cioè chi ha ragione adesso? Hanno tutti torto, perché il commerciante che dice: ma costa troppo, ma insomma io sono un panettiere, devo mettere il POS, devo pagare un euro di cuore. Il tabaccaio che dice: me lo paga il quello che mi entra qui, io gli chiedo un euro in più e quindi mi cavo e mi pulisco la coscienza così e mi salvo economicamente. Insomma, come la sistemiamo questa vicenda? Sistemare a livello di chi ha ragione, qui ci va un provvedimento legislativo e qui bisogna vedere da quale punto di vista si vuole vedere la vicenda. Se la si vuole vedere come un tentativo da parte dello Stato di colpire l'evasione quotidiana, no? La piccola evasione, che però purtroppo è quella che alla fine cuba di più, diciamo così, allora sarebbe secondo me ragionevole che lo Stato dicesse: non si detrae solamente il 50%, ma tutte le spese relative al POS vanno in detrazione dal reddito. In questo modo togliamo l'alibi, diciamo così, perché una quota di alibi c'è naturalmente. Il problema è che questa volta è giustificata, però è evidente che per artigiani, insomma per le partite IVA, il POS è scomodo, così come tanti anni fa, mi ricordo, ci fu la sollevazione di queste stesse categorie, i commercianti veramente, quando si parlava, vi ricordate, dello scontrino fiscale. Successe un casino e tutti dicevano: ma noi non siamo in grado di affrontare l'organizzazione necessaria per battere lo scontrino fiscale. Era un alibi bello e buono. No, ma è chiaro, abbiamo fatto tante puntate con Bruno Tinti, e sapete, amici delle partite IVA che ci seguite, Bruno Tinti è il più vostro grande amico e fiero sostenitore, no, perché dice: se il POS è uno strumento per controllare che non facciate del nero, ecco. Poi è uno strumento spuntato, perché naturalmente nessuno può stare lì e controllare che quei 50 euro, 100 o 1000 che siano, vengano poi, entrino, diciamo, sotto forma di accredito tramite POS, oppure vengano pagati in contanti. Comunque, mettiamo alcuni punti di principio. Lei, dal punto di vista del principio, è assolutamente favorevole allo strumento, perché tutto ciò che è rintracciabile, tutto ciò che è tracciabile come pagamento, è un qualcosa che serve a combattere l'evasione fiscale, che questo poi è la natura per cui è nato il provvedimento, no? Mi permettete una precisione? Certo, Bortolussi. Prima di tutto è opzionale, nel senso che il cliente può chiedere di pagare con il POS, ma può anche non chiedere. Ma uno non lo sa, quando uno ti entra un cliente, come fa a saperlo? Comunque la regola è questa: il cliente può chiedere o non chiedere di pagare con il POS. Si paga con il POS oltre i 30 euro, sotto i 30 euro si può pagare in contanti. Poi voglio dire una cosa. Attenzione, la storia dello scontrino non nasce perché la gente dice non possiamo, c'erano per esempio gli ambulanti che dicevano come facciamo, non abbiamo l'energia, eccetera, però il problema era questo, che nel 1996, quando il ministro Visco vuole introdurre gli studi di settore, ha fatto degli incontri con le categorie e ha promesso esattamente il superamento della valenza fiscale dello scontrino, cioè lo scontrino come lo conosciamo adesso doveva essere abolito proprio perché era lo Stato che ti diceva quanto dovevi pagare. Da allora, quando è stato introdotto nel 1998, sono passati 15 anni, sono state fatte 3 revisioni per ogni studio di settore, ci sono 6 anni di crisi e il miglioramento degli strumenti statistici. Ora, se lo Stato sbaglia a individuare quello che è il mio reddito, per carità, c'è chi fa il furbo, ma c'è anche chi dopo 6 anni di crisi guadagna meno di quanto lo Stato gli chiede. Allora, il superamento della valenza dello scontrino fiscale è una cosa che si era impegnato, aveva promesso il Ministro. Ora, queste categorie, attenzione signori, perché bisogna inquadrare i fenomeni. Perché io sono d'accordo, vede, questo è un paese poliziesco dove è stato abolito il segreto bancario, c'è l'anagrafe tributaria, c'è il ricometro, lo spesometro, Gerico, Serpico, mi spiego, sì. Il 117, la delazione, c'è tutto. Cioè, voglio dire, gli strumenti ci sono, dice, come sono a favore e io sono a favore, perché voglio che finisca questa storia della evasione, perché in Italia noi paghiamo più tasse di qualsiasi altro paese, imposte, tasse e tributi, cioè pressione tributaria, sì. Noi paghiamo il 30,5, la Germania paga il 23,5, la Francia il 27, noi paghiamo molte più tasse e abbiamo peggiori servizi. A puntarsi solo sul fatto che in Italia le cose non funzionano perché c'è l'evasione mi sembra un po' eccessivo. Allora, ovviamente 800 24 00 24, se volete intervenire, partite IVA, commercianti, clienti che magari ieri siete entrati dall'idraulico, siete andati in ferramenta, siete andati dal panettiere, avete preso il taxi, volevate pagare col POS e magari ci raccontate la vostra esperienza. Certo, banalmente, ma in maniera efficace ci scrive un'ascoltatrice Chiara e dice: ma perché io all'estero sono abituato a pagare sempre, comunque, ovunque, con la carta, sembra quasi un'operazione semplice e mi domando perché in Italia questo non si possa fare. Tinti, lei ha una risposta? A chi è che non conviene? Ma non conviene a questi che evadono, guardi che il discorso fatto... Capito, ma se c'è un governo, dice, se uno evade, contrasto l'evasione e lo faccio, punto, da domani. Ma è proprio il nostro interlocutore che... come dire, sovrappone i due problemi. All'inizio noi abbiamo cominciato a discutere del fatto che l'introduzione del POS non era stata accompagnata con una serie di provvedimenti che avrebbero reso ragionevole la sua utilizzazione. Dove siamo finiti invece? A discutere del fatto che non bisogna introdurre il POS perché in realtà le categorie che dovrebbero utilizzarlo sono già tassate da una fortuna. Beh, no, ma Bortolussi è a favore del POS, dice, però almeno per togliere la scusa che almeno si tolga questa evasione. Cioè, quello che voglio dire è che regolarmente si vede nell'evasione una sorta di difesa contro l'eccessiva pressione fiscale. Ora, a parte che di per sé, ma l'abbiamo fatto tante volte, questo è un argomento sbagliato, sono povero, non so come mangiare, vado al supermercato e rubo, ma che discorso è? Ma soprattutto è contraddetto dai fatti. Quante volte abbiamo discusso in questa stessa trasmissione del fatto che il reddito, il gettito fiscale ufficiale si aggira intorno ai 150 miliardi l'anno e che di questi 150 miliardi il 92% viene pagato dai lavoratori dipendenti e dai pensionati? Questo è un dato di fatto. Ora, è evidente dunque che l'evasione, che viene quantificata da tutti tra i 120 e i 150 miliardi all'anno, più che dalle partite IVA non può essere fatta. Allora qualsiasi strumento per impedire questa evasione va è bene, lecito, il problema è che bisogna introdurlo in maniera ragionevole. No, è chiaro, e se lo si introduce per esempio, ma se uno sbaglia non c'è nessuna sanzione. Ma questo perché ci si è resi conto che, voglio dire, Bortolussi, le commissioni forse sono un po' troppo alte. Scusi, Sinti sarà pure anche una firma del Fatto Quotidiano, sì, ma non ne azzecca una, poverino. Perché? Perché, guardi, intanto il gettito fiscale è qualcosa come 775 miliardi e non 150, di imposte dirette sono 242 circa e di indirette sono 246, questo è il dato che dà il DEF nel 2014. Il fatto che l'85% sia pagato da lavoratori dipendenti e da pensionati è il fatto che sono l'87-88% della popolazione e quindi è un argomento molto banale. Nessuno sostiene l'evasione, sostiene che in Italia si pagano molte più tasse che negli altri paesi per avere minori servizi. Questo non giustifica l'evasione. Io sono stato a favore anche del redditometro, perché deve finire sta farsa sull'evasione dove lo Stato si nasconde dietro la foglia di fico dell'evasione mentre lui è incapace e incompetente di gestire i soldi che gli italiani gli danno, e sono molti di più di quelli che danno i francesi, i tedeschi, gli inglesi, gli americani e i giapponesi. È questo che dico al signor Pinti. Poi si guardi meglio i dati, perché evidentemente di queste cose saprà molto dell'evasione spicciola, ma vede, il 25% degli italiani è unbanking, cioè non ha il conto corrente, sì, perché il sud per esempio ci sono forme, come anche al nord, di, in questo senso di arretratezza, chi dice, ah ma io quando vado all'estero pago dappertutto, intanto non è vero, secondo, io Francia, Germania, Stati Uniti e cose, vedo che non è sempre così. Per esempio, esci dall'aeroporto Kennedy di New York, tu credi di poter parlare con carta o con cosa, e invece devi metterci la monetina. Tutti hanno una idea abbastanza sbagliata, bisognerebbe andare a vedere meglio. E in più dico questo, io non sono contrario, per carità, deve sapere il signor Pinti che chi evade fa concorrenza sleale a chi non può, non vuole evadere, ma voglio anche ricordargli che in economia, anche in evasione, è una questione sempre di proporzioni. Se noi paghiamo come imprese italiane 110 miliardi di tasse contro i 120 dei tedeschi, sì, e siamo i più tassati d'Europa, ci sarà un motivo, perché la Banca Mondiale dice che in Italia la pressione fiscale, quanto paga il cittadino sugli utili commerciali, che è il 68%, mentre in Germania è il 44%. Cioè, questi sono i fatti. No, ma questi sono i fatti. Quello che dice Tinte è che non sia un alibi per dire quindi è in qualche modo lecita una sorta di evasione difensiva. Questo è, ma lei questo non l'ha giustificata così. Comunque, come vedete, cari ascoltatori, siamo con Bruno Tinte e Giuseppe Bortolussi a parlare di questa vicenda del POS, ma non solo, insomma, di tasse. Questa è solo l'ultima vicenda di quella che abbiamo titolato come puntata Vessazione all'italiana. 24 mattino. Eccoci qui alle 8:38 minuti. Allora stiamo parlando di tasse, vessazioni, di POS. Ma c'è una notizia che è arrivata, è battuta dalle agenzie in questo istante, che non riguarda questo tema. Una notizia però abbastanza clamorosa. È stato arrestato in Francia Nicolas Sarkozy, l'ex presidente francese, è in stato di fermo con l'accusa di concussione e violazione del segreto istruttorio. Una vicenda, si racconta già dalle agenzie, senza precedenti, che riguarda un presidente francese, nel senso che è una misura senza precedenti, perché permetterà agli inquirenti di poter trattenere e interrogare Sarkozy per 24 ore, eventualmente per altre 24 ore, su una vicenda di ottenere l'accusa, quella di aver cercato da parte di Sarkozy ottenere informazioni da un alto magistrato su un'inchiesta sul suo conto in cambio della promessa di una carica di prestigio. Vabbè, e questa è la notizia che è piombata così nelle redazioni, l'arresto dell'ex presidente francese, o meglio il fermo Nicolas Sarkozy. Allora, caro dottor Tinti, qua vede, su Twitter c'è uno che mi scrive, adesso mi sono perso il messaggio, lo Stato è ladro per definizione, appoggiamo l'evasione fiscale. E vabbè, questo ascoltatore evidentemente la vede in maniera un po' radicale. Le ho letto questo messaggio, che è il più, come dire, il più radicale forse. Poi c'è chi mi scrive dall'Irlanda, che anche qui hanno il POS, però c'è chi si lamenta, i commercianti si lamentano. Ma insomma, queste commissioni non potevamo obbligare le banche a dire tagliamole, ecco, non... Beh, no, questo non potevamo farlo. E perché? Perché quello è un servizio privato. Non è che lo Stato può scaricare su un privato, no, che lo gestisca da solo. Però allora se lo Stato dice ho obbligo di mettere il POS, e il POS poi è una cosa, diciamo, poco sostenibile economicamente, rischia di diventare, come dire, una tassa per conto terzi. Ecco, sono assolutamente d'accordo con lei, è stato fatto in maniera assolutamente assurda. Il problema, come dico, però non era difficile, bastava consentire una detrazione del costo integrale. Però senta, mi consenta di dire questo, vede quel messaggio che ha letto prima? Sì. È proprio la conseguenza dei discorsi che ogni volta vengono fatti quando si discute di imposte. Sempre il discorso è: io di questo Stato non mi fido, lo Stato mi dà pessimi servizi, quindi evadere è lecito, lo dice esplicitamente questo spettatore. È la conseguenza della campagna degli evasori, che siccome non possono giustificare l'evasione in un altro modo, dicono semplicemente: vabbè, ma se non mi ridanno i servizi io mi difendo e non pago. Ma magari anche la convinzione sbagliata, non lo so, di chi invece paga tutti i giorni e si vede che alla fine viene quasi strangolato da tutte queste cose. Assolutamente, tasse. Però voglio dire, questo è un problema politico, è un fatto di democrazia, smettiamo di votare gli incapaci o i disonesti. Ma non possiamo pensare che il sistema, per ovviare a una gestione dello Stato dissennata, a una pressione fiscale troppo elevata che impedisce la crescita, a tutto quello che non va bene nella gestione del nostro paese, sia delinquere. Questo è privo di senso, questo discorso. Questo no. Però certo, l'appello l'ho colto da Twitter, ma è un appello anche abbastanza diffuso. Capisco che poi uno su Twitter magari possa lanciare questo slogan in maniera semplice, in 140 caratteri. Sentiamo Pasquale da Napoli, ci chiama. Pasquale, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Allora, la mia domanda è questa, in riferimento al fatto che i mercati rionali, i mercati cittadini in genere, rappresentano sempre più una voce importante nell'economia, quindi mi chiedevo in che modo poi si era pensato di adottare il POS all'interno di un contesto dove di fatto non c'è traccia alcuna di questo tipo di... Non è che i mercati rionali, a cui vediamo molto bene, possano sfuggire in teoria alla legge, poi... Ma di fatto lo fanno. Lo fanno. È come quello che ti chiede 100 euro o 80 euro senza fattura. È fuori legge, ma di fatto esiste. Presumo che questa sia diventata veramente una voce importante, si sottovaluta tanto, il mercato oggi diventa una fonte enorme di approvvigionamento da parte del cittadino. No, certo, però guardi, io al mercato, almeno succede a Milano, vado, in teoria, e succede, mi danno lo scontrino, cioè non è che... Beh, da noi è un un po' diverso, penso che vabbè, abbiamo idea. Vabbè, certo, ma adesso non voglio farne una discussione, ci saranno tantissimi commercianti anche nei mercati di Milano che non emettono lo scontrino, come a Catanzaro, come a Bolzano, come poi adesso non voglio farne una discussione su, diciamo, geografica, come non so, Bortolussi, che risposta dare all'ascoltatore? Ma guardi, che hanno già il registratore di cassa. In Italia ci sono tanti strumenti per il controllo dell'evasione, non ce li aveva neanche la Stasi, cioè la polizia segreta della Germania, Germania Democratica, della DDR. Sì. Allora, vede, hanno già i registratori di cassa. Allora, il POS è detraibile integralmente, solo che l'effetto, anche se lo detrae integralmente dal reddito d'impresa, l'effetto è che dimezza soltanto, ma è detraibile completamente. Voglio insistere sul fatto che è una questione di proporzione. Vede, per esempio, molti dimenticano e dicono: ma è giusto pagare le tasse? E io sono d'accordo fino in ultima, perché ripeto, chi non le paga fa concorrenza sleale agli altri. Però vedi, tu non puoi tenere fermo chi rischia di persona, mi spiego, contro chi. Lei pensi solo a una cosa molto banale, quello che dal 2001 al 2010 il costo del pubblico impiego è aumentato di 40 miliardi. 40 miliardi, lo ripeto, adesso hanno messo il tetto, ma 40 miliardi è solo per i livelli apicali. La nostra pubblica amministrazione risulta la peggiore d'Europa, ma mediamente i nostri dipendenti pubblici, quelli apicali, ripeto, altri livelli funzionari, guadagnano 3 volte la media. Esatto, cioè lei dice questi non sono e mai devono essere argomenti per portare una dire giusta, no, e vadere. No, però bisogna dirlo, perché ci si accanisce contro il fruttivendolo, no? E non ci si accanisce con chi in maniera molto più comoda evade il fisco. Vede, io penso e dico questo: tra quello che evade 1.000 euro, che non li deve evadere perché altrimenti commette un'ingiustizia rispetto agli altri, e non si ribellerà mai a un fisco esoso se lui riesce individualmente ad evadere. Sì. Ma scusi, quel dipendente che timbra e va a spasso, e poi quanto evade, diciamo, quanto evade, tra virgolette? Sì, ma non viene neanche licenziato, conserva addirittura il suo posto di lavoro, e l'altro invece, il fruttivendolo che si alza alle 4 del mattino, deve pagare per lui. Questa Italia borghesuccia deve smetterla, allora, di pensare che esiste solo lei. Allora, sentiamo Antonio da Bergamo. Buongiorno Antonio. È caduta la linea, dottor Tinti, qua dobbiamo tirare un po' le fila di questo discorso. Io quello che dico sempre è che alla fine si riduce in una guerra tra poveri, tra virgolette. Cioè, immagino la scena: oggi il Sole 24 Ore racconta che il cliente che entra e che trova una persona senza POS, pagando, volendo pagare con 30 euro più, può rifiutarsi di pagare e uscire e dire: e lei commerciante mi paga anche le eventuali problematiche che dovessero gestire, multe eccetera, e il commerciante dice: io non lo metto per la banca. Insomma, alla fine riduciamo sempre a questo, una guerra tra persone, tra cittadini. Beh, dottor Miller, no, questo secondo me non è corretto, nel senso che già succede, no, che in tanti posti si va per pagare con la carta di credito e ti dicono, vero o no che sia, io il POS non ce l'ho, solo contanti. Qualcuno paga in contanti, qualcuno sceglie di andare da un altro, quindi la selezione poi alla fine la fa il mercato, non è tanto questo. Poi la cosa è stata fatta in maniera pasticciata. Adesso Bortolussi, io ho detto che si chiamava quel signore, lui dice Bortolussi, lui dice è completamente detraibile il costo del POS, ma anche qui quello che io suggerivo non era semplicemente di detrarre il costo del POS, ma di detrarre le commissioni, perché le commissioni vengono pagate per garantire un servizio imposto dallo Stato che vuole cercare di porre un freno all'evasione. È una piccola cosa da fare, perché poi, parliamoci chiaro, si tratta di 1 miliaio di euro all'anno dai dati che ha dato Bortolussi. Sì. Però levava l'alibi, e che ci sia un alibi è proprio dimostrato dal fatto che ogni volta il discorso è: lui è peggio di me. Si ricorda quel vecchio film con Celentano, che significa ci sono quelli che rubano lo stipendio, che sarà anche vero, sì, è un po' un luogo comune, sì, vero, Ma non si può dire, quindi siccome lui lo ruba, lo rubo no, anche ma lui io. Infatti quello non lo dice, però il concetto no. da dire, cioè non è che dice siccome lui lo ruba anch'io, ma dice c'è un accanimento verso le persone che sono più, come dire, esposte allo stato poliziesco, uso l'espressione usata da Bortolussi, e ci sono invece altre persone che vengono un po' così fatte passare in carriere, quindi... possono comportarsi in maniera un po' più disonesta senza essere sanzionati. Comunque io mi devo fermare qui, devo dare le informazioni sul traffico, devo salutare un altro ospite. Ringrazio Bruno Tinti, ringrazio Giuseppe Bortolussi per aver animato questo dibattito che continua, i messaggi sono tantissimi così come le telefonate, ma dopo il traffico voglio salutare intanto Tommaso Gioietta che è psicologo. Buongiorno Gioietta, dello sportello di ascolto per il benessere, la valorizzazione del potenziale del personale da pubblica amministrazione della Regione Sicilia. Allora, guai a chiamarli fannulloni, così ho letto l'incipit dell'articolo apparso sul Giornale di Sicilia che racconta anche la vicenda di Tommaso Gioietta, responsabile di questo progetto della Regione Sicilia. Tra l'altro, dottor Gioietta, pare l'unico delle amministrazioni del Sud, mi pare di capire che così è un unicum. È così. Sì, da quello che ho avuto modo di capire, sì, non ci sono altre realtà. Altre realtà. In pratica, io lo dico in maniera brutale, lei è uno psicologo che accoglie tutti gli stress e tutte le istanze, le problematiche dei dipendenti della Regione Sicilia. Quanti si rivolgono a lei e perché soprattutto? Allora, ci sono rivolti dall'apertura dello sportello fino ad oggi diversi utenti provenienti da più dipartimenti della Regione Siciliana. I motivi per cui ci si rivolge allo sportello possono essere diversi, da stress da lavoro a situazioni di mobbing, a invece situazioni molto più semplici in cui ci sono delle difficoltà di tipo per esempio relazionale o comunicativo fra il dipendente e il proprio dirigente, fra colleghi, in cui ci sono appunto delle situazioni in cui non si riesce comunque a lavorare in un clima sereno, e questo ovviamente incide molto poi sia certo. sulla ma come in tutti gli ambienti certo. di lavoro possono crearsi delle tensioni, però dottor Gioietta sì. sa che giustamente lei respingerà questa immagine, prima c'era Bortolussi che l'ha citata ma senza sapere che poi avremmo parlato con lei, no, di quanto sono tutelati a volte i dipendenti pubblici che timbrano, vanno via eccetera, lei non li dipingerebbe come fannulloni, anzi tutt'altro, no, persone che vivono tensioni quotidiane all'interno della regione? Allora, io non ho detto proprio questo, nel senso che ovviamente non è mai corretto fare una generalizzazione di quello che è lo stato delle cose, perché è facile dire si parla di privilegiati. Sì, è vero, a differenza del dipendente che lavora per un'azienda privata, possibilmente si hanno molti più diritti, molti più vantaggi. Però è pure vero, e di questo ne parlano tutte le politiche europee, che il benessere del lavoratore sicuramente non porta solamente un benessere al singolo individuo, ma un benessere all'intera organizzazione. Beh, anche un lavoratore che sta male. Certo, se poi è un dipendente pubblico non funziona l'amministrazione pubblica. Difatti, non funziona l'amministrazione pubblica, costi maggiori per l'amministrazione perché il lavoratore magari si assenta, non produce per come dovrebbe, e nei confronti anche del cittadino un servizio che non è di qualità. Comunque adeguata alle esigenze del cittadino. Quindi lei sfata anche però il mito del dipendente regionale, sa, in Sicilia sono stati scritti fiumi d'inchiostro, anche sono tanti, sono troppi, non lavorano. Lei sfata questo mito che viene raccontato dai giornali? Allora, io questo mi sento di sfatarlo, uno perché anch'io sono un lavoratore della Regione Siciliana. Ho sempre lavorato e onestamente mi sento di dire che c'è molta gente che lavora onestamente e che comunque si impegna giornalmente e dà il proprio contributo affinché la macchina organizzativa comunque sia al meglio e vada avanti. Sicuramente ci può essere, io quello non dico che non esistono le mele marce, ci può essere ovviamente una fetta del, ma come in tutte le realtà, come mm-hmm. nella società ci sono le persone che no, ma è chiaro, fanno, è chiaro, succede, fanno dell'etica, della moralità il loro diciamo obiettivo di vita, c'è chi invece vive nell'immoralità, dico quello, su quello non possiamo andare a sindacare, è l'amministrazione pubblica è in un qualche modo lo specchio della società. Questo non c'è dubbio, è chiaro che c'è il bene e il male ovunque. Comunque io la ringrazio, abbiamo concluso questa puntata con lei, voglio ricordare Tommaso Gioietta, che è di fatto responsabile del progetto, psicologo responsabile del progetto che accoglie tutte le istanze e le problematiche all'interno della regione Sicilia che si possono creare per essere dipendente della regione, magari questo crea stress, litigi e cause anche di mobbing, ci ha detto. Va bene, ci fermiamo qui. Miriam Lucchetti, Alessandro Marco Tulli ed Elisabetta Fusconi sono in redazione insieme all'alpino Peter Bescapè. Ci potete seguire anche su Twitter, il mio profilo è Alino Milan, se volete diventare mio follower io sarò molto orgoglioso. Chi è? Ah, l'alpino Peter Bescapè. Vi lascio con gli alpini allora, a domani 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.